Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. Decima puntata. Aiutato a smontare la flebo in salotto. La farfalla era chiusa ad angolo acutissimo, uno stillicidio durato 45 minuti che dovrebbe dare i suoi frutti la prossima settimana. Potresti cambiare società, cambiare allenatore, non c'è bisogno che lasci questa città. Il nuovo tecnico ti seguirebbe a distanza mandandoti i programmi via mail. Io naturalmente ti darei una mano. Ma non è possibile a metà stagione. Parliamo della prossima. Per quest'anno continuerai solo ad allenarti senza gareggiare. Gioca un po' a fare il bizzoso e saranno loro a scaricarti. Trova scuse, pianta grane, fai la prima donna. Sto scoppiando, ho bisogno di gare. E poi Roberto è un perdente, la sua sfiga sarà la tua. Inconsciamente non desidera che tu diventi un atleta che conta davvero. Segui i suoi programmi ma non i suoi discorsi. Beh, su questo sono d'accordo. E il nuovo allenatore? Resuscita i morti. Gente a fine carriera, figurati, tu sei giovane, organicamente integro, segue solo atleti di punta, in Italia circa una decina, e ha pensato a me, io ho pensato a te, si fida del mio parere. Mail from Arlati Clara, tu Claudio Seregni. No, i morti non scrivono mail. Mi dispiace per il piccolo infarto che ti avrà colto. Sono Sandra, l'amica di Clara che ti sarà sembrata un po' suonata. I genitori di Clara mi hanno fatto entrare in camera sua. Ho acceso il suo PC. Nessuna password, libero accesso alla sua rubrica e a tutti i documenti. Ti farà piacere sapere che ho trovato tantissime poesie dedicate a te. Le ho cancellate. Se avesse voluto fartele leggere lo avrebbe fatto lei stessa, non avercela con me per questo. Clara stava lavorando ad un libro e stava valutando l'idea di scriverlo collaborando con te. Ho letto in fretta alcune pagine. Clara, da giovane bambina, aveva preso un sacco di porcherie per aumentare le prestazioni atletiche, sperimentazione pura. Nemmeno i suoi preparatori conoscevano i pericoli e vantaggi di certe sostanze a quell'età. Comunque si dicevano certi che il campione viene costruito nel periodo prepuberale. Il seno era sempre più piccolo, le andava benissimo, era solo un intralcio. Le tiravano fuori sangue e dopo alcune settimane lo rimettevano. Era stata male, sia quando avevano fatto il prelievo, sia quando gli era stato trasfuso. Non so esattamente che schifezze combinavano. So solo che lei pesava 39 kg, come una mia coscia. Era stata male durante un raduno e loro l'avevano scaricata. Eppure nelle sue parole non avevo trovato rancore. Lei voleva solo continuare a correre, essere un atleta professionista a qualunque costo. Se il prezzo era quello di stramazzare a terra senza un perché, avrebbe assecondato i medici. Io non so nulla di queste cose. A me sembra assurdo che per avere successo in uno sport... Lasciamo perdere. Adesso direi cose banali. Lo sport per me è intollerabile. Sono allergica a qualsiasi forma di competizione. Non potrei mai capire. Tu sì, mi sono permessa di leggere alcune tue mail. Però qualcosa ho capito. Vi hanno usato entrambi come cavie. Per lei era una cosa lontana nel tempo. Aveva fatto di tutto per rimuoverla. Ci stava riuscendo. Aveva trovato un equilibrio fragile. Ma vista la fine che ha fatto e le pagine che ho letto, potrei dire che il passato l'ha rincorsa e ammazzata. Le tue mail l'hanno rincorsa e ammazzata. Le metteva nella posta indesiderata, poi le apriva e le leggeva. Sei una testa di cazzo, fanculo a te e la tua mania dei talenti dispersi. Avrai capito che ti ritengo responsabile della morte di Clara. Sapevi di un saltatore in lungo finito su una sedia a rotelle dopo un brutto incidente automobilistico? È stato mio compagno di corso all'università. È valido per la tua collezione. Crepa. S. Punto. Certo che vale. Tassi, l'extraterrestre. Scritta rossa su sabbia grigia. Sabbia spazzata dall'atterraggio di un saltatore in lungo oltre gli 8 metri. È la copertina di una rivista federale lontana una decina d'anni. Certo che so di Luciano Tassi. È una storia terribile, così terribile che non voglio ricordarla. Non ho foto né ritagli di giornale. So della vittoria in Coppa Europa, 8,25 m. So dell'incidente. Non è materiale per la mia raccolta di fallimenti sportivi. La tachicardia mi deve essere durata alcuni minuti quando ho visto la mail. Poi i colpi al centro del petto hanno preso a dilatarsi. Scritta così in neretto, ancora da aprire, gravida di attese. Poi è stato il tempo del dolore, che chissà perché si concentra sempre al centro del torace. Tutto si concentra lì. Clara non è più. Il cimitero dove è seppellita è colpevolmente troppo vicino a una zona industriale dove molti capannoni paiono dismessi. Sono gli unici veri fantasmi e fanno paura. L'ovale di metallo lucido che incornice il suo volto mi ha stupito. Nelle poche righe scritte prima di ingerire 25 pastiglie, Clara si è raccomandata di mettere sulla tomba una foto scelta da lei. Ha avuto cura di lasciarla tra il bicchiere d'acqua e il blister vuoto. Nella foto avrà avuto 14 anni, abbigliamento sportivo, canottiera della rappresentativa regionale. Un braccio la cinge passandole dietro la spalla, un particolare che irrita la vista, non lascia sola nemmeno la morte. Ho chiesto a Sandra di trovarmi la foto d'archivio da cui è stata estrapolata la figura a mezzo busto di Clara. Oggi mi è arrivata l'immagine scannerizzata, poi più nulla. Erano i giorni di un raduno in un complesso sportivo che assomiglia troppo a una vecchia colonia. Impianti semiabbandonati, sui muri scoloriti si aprono crepe. L'ennesima cattedrale nel deserto dell'Italia centrale. Bei tempi. Posti nuovi, adolescenti confusi tra l'impegno agonistico e l'esuberanza degli ormoni in subbuglio. Nessuno dei ragazzi del gruppo è arrivato a livelli professionistici. Un paio di mezzofondisti oggi dominano la scena amatoriale della propria regione, nella categoria identificata come M30. I due tecnici sono gli unici veri sopravvissuti del gruppo. Stanno in piedi alle due estremità della fila. Indossano polo rosse sponsorizzate da una banca. Oggi hanno visi più gonfi e stempiature più ampie. Ma sono inequivocabilmente Giulio e Roberto. Ed è proprio Giulio a cingere la spalla di Clara. È il metacarpo di Giulio a fare mostra di sé sulla foto tombale. Una maledizione eterna che a Clara si sarebbe potuta risparmiare. Clara sapeva che li conoscevo. Erano facilmente identificabili dalle mie informazioni. Avevo parlato di loro nelle mie mail, dei particolari più imbarazzanti legati a Giulio. Lei non aveva mai detto nulla in proposito. I contatti si erano interrotti quando avevo iniziato a parlarle dei sostegni farmacologici. Ho controllato la cartella con le nostre mail e le date hanno confermato la mia sensazione. È come se Clara avesse rivissuto un incubo per interposta persona. Come se fantasmi del passato fossero stati rievocati dalle mie farneticazioni. Ma non ha iniziato a strillare inorridita. Si è rinchiusa in un dolore afono che poi è diventato assoluto. Sono responsabile della morte di Clara. Mail from Claudio Seregni, tu Arlati Clara. Non so se avrai modo di leggere queste parole, non so come ti sei infilata tra me e Clara, non so perché, non mi interessa, non so chi sei. Vorrei solo che ti scordassi di questa storia, che in ogni caso non è la tua storia. C'è dolore, davvero troppo dolore, anche per me, che di dolore mi nutro. C.S. Rimango indeciso se inviare la mail che ho scritto a Sandra. Ipnotizzato dallo schermo piatto e da queste poche righe. Dalla cucina rumori di stoviglie e ronzio catodico. Da due giorni non corro. Perfino Sara a cena mi ha chiesto spiegazioni. Ho mormorato di uno stiramento muscolare con poca convinzione. È tornata con gli occhi nel piatto senza altre domande. Mi ha visto piangere per un arrossamento della faringe. Fare il matto per una bronchitella di stagione, dare testate alla parete per una tendinite, fare ore di corsa nell'acqua per non perdere la confidenza con il movimento della corsa. Anche a Sara non sfugge il carattere di dipendenza che ho con questo sport gabbia. Fuori è iniziato a piovere, gocce leggere, fastidiose. Sono indeciso. Un atleta non dovrebbe mai porsi la domanda. Gli allenamenti quotidiani sono legati ad automatismi che nel tempo diventano naturali, istintivi. Quando ti poni la domanda è finita. Devo indossare una calzamaglia ridicola, una casacca catarifrangente e uscire con questo tempo di merda cercando di non farmi investire da un'auto pirata o sbranare da un cane bastardo? Devo davvero fare questo di mia spontanea volontà? Non ho sospeso i trattamenti farmacologici. Il testosterone mi picchia nel cervello, gli occhi sono due fanali e le vene mi scoppiano nelle tempie. Ho tentato un paio di goffi approcci a Sara che ha colto l'anomalia e mi ha fissato con occhi spaventati. Prendi il Viagra. Ho lasciato perdere. È arrivata una mail del presidente della mia società, chiede spiegazioni. Mi ha inoltrato il calendario delle prossime gare, evidenziando in giallo quelle a cui non devo mancare. Mi sembrano spaventosamente vicine. Ho la sindrome dello studente impreparato, aggravata dal fatto che fino a poche settimane prima ero il secchione della classe. Decido di uscire per una piccola seduta di allenamento di almeno 45 minuti. Martedì mi presento puntuale al campo, non do spiegazioni sull'assenza degli ultimi giorni. Roberto sulla porta degli spogliatoi non mi chiede nulla, gira la testa di poco, non tiene il mio sguardo in ostaggio. Cherono pare contento. Domenica ha vinto una stracittadina a Milano, teoricamente una non competitiva. Il sindaco lo ha premiato con un trofeo, il maggior quotidiano della città ha messo la sua foto in prima pagina nell'edizione provinciale. Il trafiletto non accenna al suo passato di pistaiolo dignitoso, a quel primato mondiale di cui si fece attore per 5.600 metri su 10.000. Si limita a citare il numero degli iscritti alla manifestazione, al solito gonfiato dagli organizzatori. Nella stessa immagine si intravede un cane regolarmente munito di pettorale trascinato al traguardo da un ottuagenario in tuta rosa. In un articolo al lato, un assessore dice che nell'ultimo anno la popolazione straniera è arrivata al 9%, senza considerare gli irregolari e clandestini difficili da quantificare. Normative regionali permissive e garantiste non consentono al suo assessorato di attivarsi per tamponare l'afflusso indiscriminato di extracomunitari. Sono tanti cittadini nati e vissuti in questa città che chiedono una casa popolare, ma nel bando sono dietro a tanti stranieri con lo stesso reddito e una moglie a casa dal lavoro per propria scelta. Vivono in appartamenti sovraffollati, fanno tanti figli e non pagano le rette scolastiche. Il figlio di Cherono, quando sarà in età scolare, necessiterà di un insegnante di sostegno oneroso per la comunità e avrà comunque problemi di integrazione. L'assessore conclude dicendo che con il buonismo non si crea integrazione ma insofferenza. Nella foto a fianco, il sindaco continua a sorridere a Cherono. Ambedue hanno le mani sul trofeo. Ho stampato la foto di gruppo del raduno inviata da Sandra. L'ho fissata con quattro puntine a una lavagnetta di sughero posta all'interno della bacheca con le locandine delle gare. Ho cerchiato con un pennarello rosso i volti di Giulio, di Roberto e di Clara. Non c'era nessuno nel corridoio della piccola costruzione che fa da spogliatoio, nemmeno le velociste lesbiche. Il menù prevede 5 serie di 400 metri, recupero di corsa, 100 metri allegri, sui 25 secondi. Tra una serie e l'altra, recupero da fermo di 1 minuto e 30. Ho le gambe molli. Stamattina ho quasi violentato Sara. Il testovis mi è esploso dentro. L'animale che si è risvegliato non ha voluto saperne di masturbazione né di coitus interruptus. Non conosce le buone maniere né il latino. Nel momento culmine ho pensato a Clara. Potrei avere un figlio dalla mia fidanzata generato col pensiero di un'altra donna, defunta, con il fisico sballato di ormoni impazziti. Non è di buon auspicio. Potrei generare un bambino con un testone enorme che gli ciondola sul collo. Potrei generare un piccolo anticristo con i miei spermatozoi ipertrofici. Dopo il coito, Sara mi ha disarcionato e si è rimessa gli occhiali che teneva sul comodino. Hai una luce strana negli occhi, mi fai paura, si è limitata a dire. Nei primi metri le gambe sembrano deboli, inconsistenti, ginocchia basse, ho la sensazione di cadere, eppure i passaggi e i tempi finali dei 400 metri vengono bene. Cherono stenta e negli ultimi metri perde contatto. Faccio 100 metri di recupero in agilità e lui arriva sulla linea di partenza già attardato e con i battiti cardiaci sopra la soglia. È questo il segreto per demolirlo. Roberto, con gesti inequivocabili, mi invita alla calma. Non lo considero. Vorrei dire a Cherono che abbiamo davvero qualcosa in comune, a parte questo stupido sport. Anche io ho in caldo un embrione di bambino deforme o autistico. Non dico nulla e accelero il secondo 400 dell'ultima serie. Roberto al passaggio dei 200 mi urla il tempo, veloce, troppo. Devo attenermi ai tempi previsti dalla tabella di allenamento. Poi alla fine mi insulta. Le endorfine al solito fanno da sedativo e non mi sento offeso, non reagisco. La mia forza fisica è palese. Non ho alcun bisogno di esibirla aggredendo Roberto. I 20 minuti di defaticamento sul manto erboso scivolano bene. Mi sento ottuso e solido, impermeabili, battiti cardiaci bassi. Presumo sui 60 al minuto, riesco a scambiare qualche battuta con Cherono. Anche lui sta bene, ma dice che stasera sembro un diavolo. Usa proprio questa espressione. Ho la forza di un bufalo. La cosa nuova è che non sento alcun bisogno di gareggiare, sono un essere finito e completo, autarchico, non ho bisogno di avere conferme nelle competizioni. Quando mi dirigo verso gli spogliatoi non posso fare a meno di notare che qualcuno ha tolto la foto dalla bacheca. Mi aspettavo qualcosa del genere. Le reazioni di Roberto sono state sproporzionate rispetto alle mie colpe, come se non fossero stati solo i passaggi fuori tabella a infastidirlo. Ho intenzione di ristampare la foto e di rimetterla al suo posto. Ogni giorno che verrò al campo. Giulio me l'aveva anticipato. Non so quali siano le sue fonti, ma sono attendibili. Se dessi corda alle mie paranoie complottistiche, potrei pensare che sia lui a tramare nell'ombra, a muovere i fili delle marionette che cadono sotto le scimitarre dei saraceni. Se nel passaggio dalla mediocrità all'eccellenza è imprescindibile l'uso di sostanze proibite, allora sono tutti gestibili, controllabili, ricattabili e soprattutto intercambiabili, considerato che il talento individuale non è la componente essenziale che fa la differenza. Nelle intercettazioni telefoniche si fa riferimento a libri, libri che non sono arrivati, ne sono arrivati altri, probabilmente migliori. I colloqui sono intercettati da una palestra, non da una biblioteca né da una libreria. L'espediente usato per camuffare il senso del discorso è ingenuo. La palestra è al centro di un vasto traffico di sostanze dopanti. È quanto emerge da un'indagine della Guardia di Finanza. Tra i clienti della palestra, un paio di cicloamatori con un discreto passato da professionisti, ma a fare notizia è un maratoneta di alto livello nel pieno dell'attività agonistica. Il suo nome scuote l'ambiente, il vincitore dell'ultima edizione di una maratona molto importante, vinta con un tempo che pochi bianchi possono avvicinare. Quasi tutti i quotidiani dedicano ampio spazio alla vicenda. Nei tabulati risultano scambi di SMS entusiasti nei giorni successivi all'impresa. I prodotti erano azzeccati, buoni anche per l'attività aerobica, non solo per la pesistica. Si fanno progetti, record mondiale. Spara alto il proprietario della palestra che gestisce il traffico di farmaci. Non è molto competente sull'argomento. Il primato mondiale sulla distanza è impossibile, non necessario. New York rimane l'investimento migliore su maratoneta. Assicura gloria e vantaggi economici che danno senso a una carriera. Come anticipato da Giulio, le intercettazioni non costituiscono prova di reato e non c'è nemmeno una sospensione temporanea dell'attività agonistica. Solo un trascurabile contrattempo che rallenta la preparazione. Un piccolo trauma da rimuovere al più presto, affinché gli allenamenti possano riprendere in assenza di depressione. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.